Investire informati. Benvenuto ad Antonio La Fiosca, cofondatore e Chief Operating Officer di BorsaDelCredito.it, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e saluto tutti i radioascoltatori e ringrazio Deborah e Nicoletta per l'invito. Vuole confessare, hai visto? Vuole confessare qualcosa a proposito delle sue colazioni? Ma in realtà faccio una colazione abbastanza standard, quindi brioche, caffè, niente quinoa per lo ora. Lo dobbiamo mandar via adesso, di qua con qualche istruzione per l'uso. Lui ci insegna tutto sul peer-to-peer lending insieme all'altro ospite che adesso vi presento. Però insomma anche lui dovremmo trasmettere qualche cosa, magari poi ci ringrazierà anche. Grazie anche per essere con noi in collegamento telefonico da Parigi a Sergio Zocchi, che invece è il CEO di Lendix Italia. Benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Lei stamattina cosa ha mangiato? Colazione francese. La baguette. La baguette con un po' di burro. Baguette con burro. Naturalmente, baguette e croissant. Anche perché lui aveva una bella conferenza stampa impegnativa giusto stamattina a Parigi, per cui ho dovuto andare bello carico. Esatto. Allora, andiamo un po' a mettere in ordine invece i nostri argomenti di questa mattina. Non li abbiamo naturalmente chiamati per raccontarci che cosa mangiano, ma per raccontarci invece in che cosa consiste questa loro attività d'impresa, che come vi dicevo prima in realtà è un mercato ancora considerato di nicchia nel nostro paese, perché le imprese sono ancora molto bancocentriche, se hanno bisogno di finanziarsi continuano a privilegiare il canale tradizionale. Detto questo, si sta affacciando appunto sul mercato italiano con uno sviluppo che è partito con maniera particolarmente intensa dal 2015, perché proprio La Fiosca mi spiegava poco fa in privato che è stato l'anno di svolta anche per la regolamentazione del settore, e allora appunto il peer-to-peer sta adesso prendendo sempre più piede. Faccio fare un rapido biglietto da visita ad entrambi delle proprie società, me lo devono contenere in un minuto naturalmente, poi andremo con qualche esempio pratico a capire come funziona, perché quello che dobbiamo spiegare stamattina è non tanto come le aziende che si rivolgono a voi si finanziano attraverso questa modalità, ma è soprattutto spiegarlo a coloro che sono dall'altra parte di questa medaglia, cioè Deborah e Nicoletta, che magari hanno un po' di soldini da risparmiare, lo mettono su queste piattaforme, poi questo denaro viene utilizzato dalle imprese per finanziarsi, ma noi ci guadagniamo qualcosa. Quanto? Hai capito? Ti piace? Mi piace. Vuoi venire a bordo con me? Questa sì, facciamo una socia. Esatto. Allora, La Fiosca, cominciamo con lei. Borsa del Credito nasce nel 2013 in Italia. Sì, in effetti vado rapido con una presentazione, poi andiamo dentro gli argomenti che sono molto molto succulenti. Allora, innanzitutto BorsaCredito.it nasce nel 2013 come prima piattaforma di brokeraggio in Italia di credito alle imprese. Dopo un po', diciamo, di peripezie, nel senso che ovviamente era un percorso che ci voleva far portare la nostra azienda a diventare quello che è ora, cioè una piattaforma dove le aziende in maniera digitale trovano un canale alternativo alle banche, quindi trovano credito, diciamo, alternativo a quello tradizionale. L'altra faccia è che diamo la possibilità ai risparmiatori e a qualsiasi titolo di investire in maniera diretta e, nell'economia reale, senza nessun tipo di barriera intermediazione. È un aspetto che anche questo è completamente innovativo e un prodotto abbastanza unico nel nostro sistema. Tra l'altro sistema. Mi viene subito da chiederle, proprio adesso che stanno partendo i piani di risparmio appunto in Italia, che hanno lo stesso questo obiettivo, consentire una diversificazione ai risparmiatori andando ad investire direttamente sull'economia reale, e entrate anche un po' in conflitto con questo. Questo, tra virgolette, salutare, perché la competizione è sempre buona cosa per il mercato. Chiusa parentesi, poi magari ne parliamo dopo. Assolutamente. E quindi, insomma, partiti, una volta partiti, come stanno andando le cose? Le cose stanno andando molto bene. Nel 2015 finalmente siamo diventati una piattaforma autorizzata da Banca d'Italia a fare questo tipo di operatività, quindi seguiamo tutto l'aspetto, diciamo, del credito a 360 gradi, quindi è come se fossimo, come dire, una piccola banca, ma completamente, mm-hmm. completamente diversa. Abbiamo finanziato più di quasi 300 imprese da quando siamo partiti, quindi da fine 2015, e quindi il mercato, anche grazie all'ingresso di nuovi operatori, e qui facciamo anche qui il benvenuto a Lendix nel nostro paese come nuova piattaforma, la piattaforma, e quindi questo tipo di alternativa sta crescendo in maniera abbastanza vistosa. Sergio Zocchi ha sentito che è stato il suo competitor a darle il benvenuto questa mattina. Allora, voi arrivate dalla Francia, un player molto noto appunto sul territorio transalpino. In Italia la vostra avventura è più recente rispetto a quella di Borsa del Credito. Certo, grazie Antonio per il benvenuto. Lendix ha cominciato la sua attività 2 anni fa sul mercato francese e oggi è diventata la piattaforma leader di mercato in questo paese. Senta Zocchi, peraltro sta utilizzando un viva voce? No. Ah, ecco, no, perché la sentivamo un pochino in una dimensione che ci sembrava paranormale. Sentiamo, quindi se può avvicinarsi un pochino alla cornetta ci fa la cortesia. Grazie, che in radio è più utile così. Grazie. Certo. Sì. Oggi l'attività di Lendix si sta allargando anche ad altri paesi al di fuori della Francia, quindi abbiamo lanciato l'attività in Spagna e a breve saremo operativi anche sull'Italia. E la novità proprio di oggi è che questa mattina il primo finanziamento ad un'impresa spagnola è stato pubblicato sulla nostra piattaforma. Ammiriamo quindi però quello veramente... che fate, che siete riusciti a fare fino a questo momento per l'Italia. Per l'Italia stiamo creando il team per gestire tutte le operazioni dall'Italia. Ovviamente in ogni nazione in cui estendiamo la propria attività creiamo un team locale necessariamente che deve avere una importante conoscenza del mercato locale, quindi tutte le attività sono portate avanti da un team in ogni singolo paese in cui l'Endix opera. E questa espansione internazionale è in realtà il primo passo verso il nostro obiettivo di creare un mercato europeo del risparmio dedicato alle piccole e medie imprese, perché noi non soltanto stiamo permettendo anche a investitori spagnoli e ad aziende spagnole, investitori italiani e ad aziende italiane di operare attraverso la nostra piattaforma, ma creiamo proprio un unico mercato paneuropeo dove investitori italiani possono investire su operazioni italiane, su aziende spagnole, francesi e viceversa. Quindi un vero mercato europeo dedicato al finanziamento delle piccole imprese. Benissimo. Cuore e denari. Allora, Riccardo si lamenta che parliamo in inglese, oggi stiamo provando a capire come funziona questo mondo che in Italia rappresenta ancora un po' una nicchia di mercato, ma sta provando a farsi spazio, a farsi largo, se non altro per offrire delle opportunità di finanziamento nuove alle imprese che vogliono crescere, che magari sono un po' stanche di interfacciarsi con il tradizionale canale bancario. Allora, Antonio La Fiosca, cofondatore di BorsaDelCredito.it, ma come facciamo a tradurre in italiano peer-to-peer lending? Bah, io... Proviamoci, va così Riccardo smette di lamentarsi, esatto. Perché ci sta tempestando stamattina. No, io l'ho fatto in fase introduttiva dicendo che siamo sostanzialmente una piattaforma digitale ecco. Dove si possono trovare dei richiedenti, quindi degli imprenditori che cercano denaro con dei risparmiatori, quindi la cosa più semplice del mondo. Allora, una piattaforma digitale, voi siete già operativi, avete già delle aziende che avete finanziato, più di 300, e quindi dei prestatori che state già remunerando nel loro investimento, mentre Lendix praticamente con Sergio Zocchi, l'amministratore delegato che è in collegamento da Parigi con noi stamattina, lo stiamo tenendo un po' a battesimo, siamo le madrine, Nicoletta, di questa attività, perché Lendix è arrivata sul mercato italiano proprio in tempi recentissimi. Allora, tante curiosità da parte degli ascoltatori, all'800240024 andiamo subito a toglierci la più importante. Guardiamo questo vostro lavoro, La Fiosca, dal punto di vista del piccolo risparmiatore. Allora, facciamo un esempio. Io e Nicoletta vogliamo partire con una nostra attività d'impresa, abbiamo bisogno appunto di finanziarci, veniamo da voi per chiedervi 50.000 euro. Intanto, in quanti tempi ci date, in quanto tempo ci date una risposta? Allora, innanzitutto la risposta è che noi ci spendiamo dal punto di vista proprio di tempistiche è 24 ore. Quindi nel bene o nel male diremo a Nicoletta e Debora avrete accesso piuttosto che no a un prodotto, un finanziamento sostanzialmente domani. Quindi oggi fate la richiesta, domani avete ma non valutate risposta. Il progetto di impresa da sostenere in appunto queste, finanziariamente. In queste 24 ore facciamo la valutazione. Inoltre la richiesta può essere inserita 24 ore su 24 o 7 giorni su 7, nel senso che la piattaforma è una piattaforma digitale e quindi troverete sempre la clera alzata e potete inserire nel vostro tempo libero, quando credete opportuno, ritenete opportuno di inserire una richiesta di credito. In queste 24 ore quindi poi noi procediamo alla valutazione della richiesta. Certo, a quali condizioni dite no? Cioè, vi è capitato naturalmente di respingere dei progetti? Sì, ci capita anche abbastanza spesso, nel senso che le condizioni di accesso alla piattaforma sono date da elementi di valutazione qualitative e quantitative che noi facciamo attraverso tecnologia, perché per rispondere in 24 ore ci vuole un utilizzo efficace della tecnologia, e sulla base di queste condizioni noi diamo una valutazione positiva o negativa in maniera molto trasparente ai richiedenti. Zocchi, anche per voi sarà così l'idea di dare una risposta alle imprese che avranno bisogno del vostro sostegno appunto in tempi così rapidi, 24 ore, che in banca effettivamente soprattutto in questo momento ce li sogniamo, anche perché dato lo stock di sofferenza differenze che hanno, valutare nuovi progetti di impresa anche se ne arrivano potenzialmente mirabolanti. La banca magari ci mette un po' di più. Zocchi? Anche per noi funziona già così sul, con le imprese francesi che abbiamo finanziato in questi 2 anni di attività. Diamo alle imprese che fanno una richiesta di finanziamento su Lendix una risposta oggi in 48 ore, in futuro in 24 ore, che è vincolante da parte di Lendix. Ah. Nel senso che oltre a dare... Non vi potete tirare indietro se poi magari durante, come si dice, la due diligence, tanto per continuare a utilizzare dei termini appunto in inglese, se scoprite qualche scheletro nell'armadio e nel proponente il progetto non vi potete tirare più indietro una volta firmato il compromesso. In questo periodo di 48 ore facciamo l'intera due diligence, quindi siamo in grado di offrire alla società delle condizioni, una proposta con delle condizioni certe, quindi, ma anche possiamo dare una garanzia che il finanziamento che hanno richiesto verrà integralmente sottoscritto e verrà versato alla società nel giro di alcuni giorni. E possiamo dare questa garanzia perché operiamo attraverso 2 tipologie di investitori sulla piattaforma Lendix: gli investitori privati retail che investono discrezionalmente anche degli importi molto piccoli su ogni singolo progetto di finanziamento alle imprese, e abbiamo anche un gruppo di investitori istituzionali che ci permette di dare, e siamo l'unica piattaforma che permette di dare questa garanzia di successo di ogni progetto che viene presentato sulla piattaforma, grazie a questo pool di investitori che ci danno una disponibilità oggi di 100 milioni di euro da investire attraverso la piattaforma. Il tema questo è interessante naturalmente, un imprenditore viene da voi, la fiosca attorno da lei, si finanzia, parte con la sua attività di impresa, oppure magari sono anche attività già preesistenti che hanno bisogno di avere un ulteriore sostegno. Una volta che avete erogato il finanziamento, la relazione con loro finisce lì, oppure voi continuate a chiedere conto anche di come sta andando l'attività, oppure l'importante è che loro ripaghino il loro debito e non li sentite più? Sì, in realtà una volta che noi abbiamo erogato il finanziamento, gli imprenditori sono sempre in stretto contatto con noi, li sentiamo per qualsiasi tipo di necessità attraverso tutti i nostri canali, dalla chat alla mail, siamo veramente omnichannel, ovviamente digitali, e li seguiamo per tutta la durata del percorso, quindi tendenzialmente anche una volta al mese ci fa piacere sentirli, anche perché gli imprenditori sono tendenzialmente sempre molto soddisfatti del servizio, che è un servizio efficiente che noi diamo ai nostri interesse naturalmente e poi, a mantenere questa relazione. Esatto, anche perché la maggior parte delle volte, anzi con la quasi totalità dei clienti ritornano, quindi vuol dire che sono molto soddisfatti del servizio offerto. Ad un soggetto finanziato quanto costa questo finanziamento rispetto ad un prestito tradizionale ottenuto in banca? Da questo punto di vista a noi ci piace sempre dividere il mondo in due, nel senso che c'è una parte che è quella tangibile, tra virgolette, di costo del denaro, visto che siamo a cuore denari, e poi c'è un aspetto che secondo me è ancora più importante, che è la parte qualitativa di un costo, nel senso che io sfido anche voi a apprezzarmi il fatto che andate 10 volte in filiale a portare i documenti, ad aspettare 4 mesi per avere un finanziamento. Quindi, al netto di questo, che non vogliamo apprezzarlo, ma è un aspetto importantissimo del nostro prodotto, i costi sono tendenzialmente in linea anche con i prodotti bancari, ma la differenza è che il nostro è un prodotto finito, con costo finito, non ci sono prezzi costi nascosti durante il rapporto. Voi sapete meglio di me che la banca invece durante il rapporto può in qualche modo integrare i costi e le commissioni, invece noi siamo specializzati e viviamo solo per fare finanziamenti, offriamo delle condizioni fisse alle nostre controparti e una volta che il rapporto è iniziato non chiediamo più soldi e nessun tipo di balzello ai nostri clienti. L'ha detto qua, ci auguriamo che sia vero. Fatti chiare, amicizia lunga. Esatto, no, adesso andremo poi anche dall'altra parte, come dire, della barricata, per capire come prestatori che cosa otteniamo in cambio di questa avventura anche finanziaria in termini di investimento. Mi chiedevo, fra le 300 società che avete finanziato fino a questo momento, esiste, non lo so, una specificità di settori che hanno approfittato di questa opportunità, oppure avete finanziato un po' settori di ogni tipo, siete intervenuti in maniera eterogenea? Cenea. Sì, questo è, un dato molto interessante. Ringrazio Deborah anche per la domanda. In realtà la cosa che ci conforta è che gli imprenditori che vengono da noi sulla piattaforma sono abbastanza eterogenei, quindi qualsiasi tipo di settore, dal commercio all'edilizia, tutto il nostro tessuto delle micro, delle piccole imprese. Le startup, perché qua ci sono delle domande proprio appositamente dedicate a questo. Rossella dal Friuli ci scrive: finanziate anche le startup, perché lì c'è un investimento in più per voi sicuramente da fare. Certo, è un prodotto però diverso, nel senso che noi investiamo e finanziamo i nostri prestatori aziende che sono già nate e che abbiano un minimo di vita. Il prodotto, quello per le startup, è un prodotto un po' diverso, è più di investimento, appunto, come dicono gli inglesi, ma non usiamo parole inglesi. No, per carità. Le traduce immediatamente, le sto traducendo tutte. Entrano nel capitale. Questo è quel supporto che si può dare in un'azienda giovane o addirittura un progetto imprenditoriale, certo, non ancora nato. Noi finanziamo soprattutto aziende che abbiano un minimo di vita, ma stiamo parlando di pochi mesi anche di vita, possiamo già dargli una mano. Un'azienda che è stato particolarmente contento di aver finanziato qual è? Beh, ne abbiamo tante, facciamo fatica, ma abbiamo alcuni clienti, tipo un birrificio dell'Emilia Romagna che si è finanziato più volte, un'azienda che poi tra l'altro ha fatto tanti miglioramenti in quest'anno e mezzo, ha aperto anche un pub a Londra, il primo pub di birra artigianale che c'è a Londra, italiana, ha cambiato lo stabilimento ed è, come dire, un nostro gruppi, per usare un termine rock, e che è molto contento, diciamo, ecco, di questo servizio. Esatto, quindi insomma, per andare a finanziarsi con la modalità digitale non c'è bisogno di fare solamente la app per lo smartphone, ma si può andare anche su settori assolutamente tradizionali, il birrificio, poi con Expo, quanti ne sono sorti, quante puntate abbiamo fatto con questi ragazzi, Nicoletta, che si lanciano in questa avventura imprenditoriale. Anche. Fra un po' abbiamo la nuova pausa per il traffico, ma Zocchi, vorrei venire da lei, voi che state partendo adesso invece in Italia, quali aziende le piacerebbe finanziare? Noi siamo il paese delle piccole e medie imprese, della manifattura, delle cose belle, del bello e ben fatto. Che cosa ci dice su questo? Noi finanziamo appunto tutte le piccole, potenzialmente tutte le piccole e medie imprese. Abbiamo sul mercato francese oggi aziende da fatturato di qualche centinaia di migliaia di euro e aziende che fatturano più di 100 milioni. Quindi siamo in grado di soddisfare le esigenze di finanziamento di una pluralità di aziende nei più diversi settori industriali. La nostra proposta tipicamente prevede tagli di finanziamento fino a 2 milioni di euro, quindi siamo in grado di finanziare dei progetti di sviluppo anche importanti di piccole e medie aziende, quindi il tessuto imprenditoriale e industriale italiano è per noi un mercato estremamente interessante. Certo, immagino. E questo con una proposta che si differenzia molto rispetto alla proposta di finanziamento bancaria tipica. Quindi abbiamo parlato della rapidità di erogazione e di decisione, quindi in 48 ore possediamo una risposta certa e vincolante, e nel giro dei 5 giorni successivi siamo in grado di erogare il finanziamento. Non chiediamo garanzia, non chiediamo collaterali e siamo in grado di finanziare anche delle tipologie di investimento, sempre investimenti per lo sviluppo da parte delle aziende che tipicamente le banche non sono in grado o tipicamente non finanziano. O magari in certi momenti, insomma, della loro vita decidono di non finanziare più per tutta una serie di problematiche che abbiamo affrontato tante volte. Cuore e denari. Allora, vi potrebbe sembrare che la domanda che faccio, che il domandone che faccio non c'entra nulla con l'argomento di stamattina, invece c'entra, e come? Allora, intanto andate a pescare l'ultima asta che ha fatto il Tesoro italiano sui bot annuali. Vi ricordate quanto rendimento hanno ottenuto il titolo annuale a scadenza? Quanto rende in Italia in questo momento? 800 24 00 24, il numero verde a cui potete rispondere per guadagnarvi la brochure di Borsa del Credito di lei. Che oggi mandiamo magari, o anche un libro appunto della nostra nutrita biblioteca. Detto questo, per legarmi al domandone e al prossimo aspetto che voglio affrontare con i nostri ospiti, ci metto dentro la punzecchiante domanda di Alessandro da Pisa. Alessandro, benvenuto. Eccolo, è caduto. Allora, voleva chiedere quali sono i rischi che si corre facendo il prestatore per questa attività, per il peer-to-peer. Perché? Abbiamo sentito che le aziende si possono finanziare, ma come fate voi raccolta naturalmente? Dove prendete il denaro da erogare a questi imprenditori che vengono appunto a chiedervi di essere sostenuti finanziariamente? Raccogliete attraverso il piccolo risparmio. Quindi se Nicoletta ha bisogno per la sua attività di impresa di 20.000 euro per fare un ulteriore investimento, può essere Deborah che fa il prestatore, che ci mette lo stesso denaro sulla vostra piattaforma, ma naturalmente siccome nessuno fa niente per niente, la fiosca, quanto ci guadagno a fare l'attività appunto di prestatore? Allora, andiamo per ordine. Sì. Allora, andiamo per ordine. Innanzitutto, noi in questo momento sì, ci finanziamo per lo più con privati, anche se nel 2017 partiremo anche noi con investitori, tra virgolette, istituzionali. Quindi ci sarà questa grossa novità che annunceremo nei prossimi mesi. Salto di qualità anche per voi, insomma. Esatto. Da questo punto di vista, però, diciamo, i retail, i prestatori privati che investono sulla piattaforma hanno dei ritorni molto interessanti. Infatti, perché se uno va sul vostro sito e vede il rendimento annuo lordo del 5% e abbondante, che rispetto a questo botto ad un anno che dicevamo prima, c'è un abisso. Esatto. Sottolineo che questi sono dati che noi pubblichiamo tutti i mesi, perché facciamo della trasparenza anche un nostro valore aggiunto. È un rendimento molto interessante, ci sono ovviamente dei rischi come qualsiasi tipo di investimento finanziario, con la differenza, per paragonare il nostro prodotto, come dire, a un finanziamento, quindi a un bond, con delle particolarità che invece non ci sono in un bond. Innanzitutto una diversificazione che è praticamente estrema, nel senso che i famosi 100 danari che ci dà il prestatore retail, noi cerchiamo di investirli e obblighiamo... Su tutte le aziende, quindi non sono diretti a un solo... Assolutamente, anzi all'1%, quindi se tu mi dai, Deborah, 100 euro, io metto solo un euro in una singola azienda, che rappresenta l'aspetto principale di qualsiasi mitigazione del rischio, cosa che purtroppo ogni tanto i risparmiatori... La diversificazione degli emittenti, potremmo dire, insomma, vabbè, cioè A noi piace più definire degli artigiani, delle gelaterie, appunto dei piccoli birrifici, che sono tra l'altro molto molto più come dire, costanti nel pagamento delle rate se guardiamo le sofferenze bancarie. E poi ovviamente un'attenta valutazione che facciamo, però questa mi sembra quasi autoreferenziale, però noi la facciamo utilizzando anche dei dati che le banche non utilizzano, tipo quelli del web, Google piuttosto che i social, che utilizziamo nelle nostre valutazioni, e in più il credito, quindi il finanziamento che viene fatto, viene assicurato, cioè nel senso che come qualsiasi assicurazione viene stimato un sinistro, questo sinistro viene pagato con un premio assicurativo, quindi nel caso in cui ci sia un problema, una difficoltà dell'azienda che ha preso i danari, viene rimborsato il prestatore con tutta la quota che ha finanziato, con la piccola quota che ha finanziato. Ma la remunerazione per il prestatore avviene con cadenza annuale? Quanto può tenere immobilizzato appunto il suo investimento? Non c'è un limite? Questo è un aspetto anche molto interessante, che differenza secondo noi in positivo anche rispetto a un'obbligazione, nel senso che le cedole sono praticamente mensili, nel senso che i richiedenti dall'altra parte pagano tutti i mesi le rate, e quindi i prestatori prendono, poi facciamo noi, come dire, il lavoro sporco di prendere queste rate e metterle sui conti dei prestatori, però tutti i mesi c'è un rientro dei finanziamenti, quindi tutti i mesi c'è liquidità che entra. E la piattaforma consente anche forse in maniera spasmodica la possibilità di personalizzare poi l'utilizzo, nel senso che uno può ritirare i danari, può reinvestirli, può fare quello che vuole, non ha, come dire, scadenze o limiti, e può investire dai 12 mesi ai 60 mesi. E il prestatore, attraverso la piattaforma, quindi, e attraverso qualsiasi, come dire, device, quindi qualsiasi telefono, dispositivo, grazie per la traduzione, ha la possibilità di bloccare l'offerta, ritirare i soldi. Quindi è liquido l'investimento. Assolutamente, diciamo. Liquido, e all'interno tra l'altro c'è anche un mercato che noi chiamiamo mercato secondario, dove addirittura i prestatori possono scambiarsi un po' tutte le quote di finanziamento. Tra l'altro, insomma, tutto molto interessante, però ecco, questa dinamica che lei ci ha spiegato mi rende maggiormente consapevole del fatto che facciate fatica ad entrare o comunque a consolidarvi con rapidità in un paese come il nostro, che invece ha una modalità di gestire l'investimento e risparmio, il finanziamento per la propria attività di impresa in maniera ancora molto tradizionale. Detto questo, però, insomma, un po' di crescita anche culturale da questo punto di vista va fatta. Zocchi, dal suo punto di vista invece sul tema delle remunerazioni alte, noi raccomandiamo sempre agli ascoltatori, quando si interfacciano con un intermediario finanziario che propone rendimenti molto alti per la soluzione di investimento proposta, raccomandiamo a rendimenti alti e rischi altrettanto alti. Sembra che con voi questa regola, insomma, venga un pochino ad essere considerata in maniera particolare. Non so, diamo anche qualche ulteriore elemento per affrontare con consapevolezza questo aspetto ai nostri ascoltatori. Ma noi con l'Index stiamo offrendo anche agli investitori privati, ai risparmiatori, di investire sulle aziende italiane o di altri paesi, quindi sull'economia reale, finanziando delle piccole quote di finanziamenti che vengono sottoscritti per la maggior parte da investitori professionali istituzionali. Quindi ogni singola operazione di finanziamento viene sempre sottoscritta da queste diverse tipologie di investitori a parità di condizioni, in pieno allineamento di interessi e come ulteriore garanzia del fatto che il nostro processo di selezione è estremamente attento e selettivo, il management di Lendix investe sistematicamente su tutte le operazioni che vengono presentate ai propri investitori. Quindi questo è l'elemento... come tutti gli imprenditori, che come dovrebbero fare tutti gli imprenditori nella propria azienda, no? Zocchi. Questo ci permette di dimostrare di avere un pieno allineamento di interessi con tutti, con tutti gli investitori che decidono di investire con noi. Le devo chiedere purtroppo, Zocchi, di interrompere perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Claudio dalla provincia di Reggio Emilia ha azzeccato il rendimento del bot annuale in un secondo. Claudio, veloce. Sì. Vada. Meno 0,25. Bravo, grazie. Allora, io purtroppo termino qua. Ci sarebbero state tante altre cose da raccontare, ma non ce la facciamo. Abbiamo parlato bene di voi, mi raccomando, non fateci fare brutta figura con i nostri ascoltatori che sono molto interessati a queste attività di cui abbiamo parlato stamattina. Tutti gli ascoltatori che non siamo riusciti ad accontentare rispondendo in diretta, scriveteci, gireremo le vostre domande ai nostri interlocutori. Lendix, Borsa del Credito. Nicoletta, abbiamo terminato? Sì, ricordate, febbraio, mese delle articolazioni. Scrivete. Grazie, a lunedì.